Benvenuti al sesto episodio di Mitsu Segone Triforce. La surma è sempre la stessa. Cosa ridi? C'è Vario Punk, ciao a tutti. Scar the Pumpkin. Eternamente abbonato alle riviste anni 80. Rixga 4.0. No, sono in fase di aggiornamento. Esira 93. Ciao a Sono tutti, 4.5. grandissimi. Ok, riproviamo. Rixga 4.0. 4.5, Ah, sono ok. vedi No, che prima c'è stato in silenzio, quindi probabilmente eri in fase di upload. in ricarica. No, sì, esatto, sì. La connessione era intasata, non riuscivo a comunicare. Erano gli Anonymous, di la verità. Va bene. E ti pinghiamo dopo. Allora, prima di iniziare la puntata, facciamo un paio di aggiornamenti. Allora, innanzitutto, Ask the Maker probabilmente non si sa, si fermerà per un po' perché siamo a corto di ospiti. Denaro. Avevano Ospiti. capito, lo sai, secondo me. Infatti, l'episodio della settimana in cui sentirete questa, l'episodio di Triforce, è un Origine. episodio molto particolare. Ma scusa, non puoi chiamarmi Yamoto che tu hai un sacco di contatti con quel bellissimo signor uomo, Chi è il Miyamoto? creatore della Nintendo. Allora, e inoltre l'angolo del freeware che si tiene a fine puntata è stato rimosso e quando si girerà creeremo una nuova trasmissione chiamata Micio Segone Free Zone, dove dedicheremo un'ora e un quarto a parlare nello specifico del freeware e faremo puntate dedicate ai generi, ai tool, ai siti e cose così, perché come lo facevamo prima, diciamo, era un po' riduttivo, giusto? Giusto. Giustissimo. Siamo tutti d'accordo. E niente, rettifiche delle cavolate scorse non ce ne sono, direi che possiamo iniziare la puntata normalmente. Ma perché nessuno parla mai? Vabbè, Stavo chi è che aspettando vuole che dicessi iniziare? inizia. Io Eh? no. Inizio Marco, non ti sento più. io. Inizio Stiamo io. partendo. Eccolo qua. Vuole iniziare lui? Ah, bene. Marco vuole recensire una cosa, una novità. Una cosa particolare. Vai, a te la Allora, parola, prego. grazie. Allora, un gioco testuale, un'avventura testuale nel 2012. Siamo Esistono nel ancora. 2012. Vabbè. Esistono ancora. Allora, l'avventura in questione è Cypher, da non confondere con un altro Cypher che si chiama Uguale. Però si tratta di un altro gioco. Nessuno dei due deve aver registrato il nome, direi. Sì, infatti. No, perché l'altro mi pare che si chiama Traitor's Gate 2 Cypher, nome in codice qualcosa, cioè è un sottotitolo. Comunque. Aspetta che arriva la Apple e poi ci penso loro a Ah, ok. brevettarlo, probabilmente. Allora, il titolo giusto è Cypher Cyberpunk Text Adventure. Ok, perché c'è anche un film che si chiama No, gli Cypher. hanno fatto il film nel Sì. Sì. 2013. Allora, è il primissimo lavoro, diciamo, dei Cabrera Brothers, che a quanto pare sembrano essere spagnoli, perché Carlos e Javier sono spagnoli. Esatto, Sembrano anche essere fratelli. Cabrera Brothers, appunto. E praticamente si tratta di un'avventura testuale. Però qual è la particolarità? Perché le avventure testuali in realtà non è che sono morte, cioè se si fa un giro in internet si trovano anche avventure di questi anni, no? Uscite Sì. ultimamente, chiaramente gratis. Sì. In Italia abbiamo un sito parecchio vasto sulle avventure testuali freeware. Sì. Io conoscevo, cioè, ce n'era uno americano dove c'erano ogni giorno almeno vedevo nuove cose, nuove avventure. C'è anche quella su Dylan Dog addirittura. Adesso Ah. ti dico il nome, vado a cercare, ti dico il nome, comunque continua, non ti volevo interrompere. La particolarità qual è che contraddistingue questa da tutte le altre? Innanzitutto le altre, nonostante siano nuove, sono comunque rimaste legate al solo testo, no? A parte qualche esempio, però comunque cioè tu quello che vedi praticamente lo leggi, diciamo, come è appunto tutte le avventure testuali. Invece quello che fa Cypher è dividere praticamente lo schermo a metà. Nella parte sinistra c'è la parte descrittiva e testuale dell'avventura, invece nella parte destra possiamo vedere proprio visivamente gli elementi dell'inventario e una piccola foto, diciamo, del luogo in cui ci troviamo, compreso anche il profilo del personaggio che fuma continuamente le sigarette. Quindi diciamo che è una cosa un po' più visiva. Certo comunque che è tutto descrittivo nella parte testuale. In più, un'altra cosa che io sinceramente non ho mai visto in nessuna avventura testuale, e non ne ho giocate tantissime, però non l'ho mai vista, è il fatto di dialogare con i personaggi scrivendo proprio la domanda da fare. Quindi scrivendo ad esempio il nome della persona, una virgola, e poi la domanda da fare. Loro rispondono. La cosa bella è che l'hanno pensata bene, nel senso che non devi scrivere per forza la frase che loro pensano. Tu puoi scrivere anche il contesto, diciamo, in vari modi, puoi scrivere la domanda e loro ti rispondono. E questo è una novità, almeno per quanto ho potuto giocare alle altre, questa mi sembra una novità. Sì. È una cosa abbastanza complicata, diciamo, anche da sviluppare, penso. Esatto. Probabilmente c'è, diciamo, un legame di affinità con le parole che puoi dire. Ci sono i vari sinonimi e lui ricollega. Esatto. Ci sono le varie parole chiave. Esatto. Si sente parole chiave, sì, infatti, che dicono una risposta. Secondo me è così. Perché però comunque il parser testuale di solito è composto, non è composto dai. Nel parser testuale non ci sono. Arrivo, eh. Gli articoli, quelle cose lì, prende solo nomi, pronomi, aggettivi, e quindi tu anche la frase la puoi formulare in modo diverso. Lui guarda l'attinenza che delle parole chiave. Esatto. Però comunque è un approccio diverso, perché scrivere, non so, Sara, virgola, I need help, e la persona ti risponde, è la stessa cosa che scrivere Sara, help, senza scrivere niente. E quindi, cioè, può essere formulata in modi diversi. Ma funziona come un motore di ricerca. Tu quando cerchi una cosa su un motore di ricerca, non devi scrivere per forza le parole chiave perfette. Il paragone ci sta. Esatto. Loro prendono, un motore di ricerca prende le parole chiave della frase che hai scritto e poi si cerca l'attinenza nei vari siti che ha trovato. Ti interrompo un secondo, ho trovato il sito che ti dice, cioè non è un sito in realtà, sono stati inglobati da Old Game Italia. Se vai su Old Game Italia, nella home c'è If Italia in basso, che praticamente Interactive Fiction Italia, sì. Esatto, e il loro sito non esiste più e sono stati ospitati da Old Games Italia, e c'è tutta la loro collezione di avventure testuali che sono veramente tante. Ah, allora ci dovrò andare a fare un giro. Poi, quindi questa è la caratteristica particolare. Poi, dato che non tutti sono, diciamo, abituati a giocare con le avventure testuali, non so come hanno fatto, però il parser in generale sembra molto più semplificato rispetto al resto delle avventure grafiche, avventure testuali, scusate. Quindi se io ad esempio voglio aprire, non so, aprire una porta, scrivo open, non so, west door, e si apre la porta. Molte avventure sono fatte così, però questa riesce a far avvicinare le persone a giocare ad avventure testuali. Quindi non ti mette subito davanti a, non so, un labirinto dove non riesci più a trovarti, non riesci più a trovare la strada. Anche appunto il parser riesce a capire varie parole anche se non sono scritte. Tipo io, c'è un punto nel gioco in cui hai un taser, che è quello là, quell'arma che fa dalla scossa, che dà la scossa, e io non sapevo come usare questo taser, perché non sapevo il comando giusto. ho guardato nell'help e non c'era scritto. Poi ho capito che il gioco capisce io cosa voglio, e quindi ho scritto zap, che vuol dire proprio dare la scossa, e lui ha capito che io volevo dare la scossa. Quindi diciamo che anche le parole dentro il parser ne sono state inserite parecchie, no? per fare varie cose. Una cosa però che non mi è piaciuta è il fatto che non accetta le abbreviazioni. Quindi se lo io slang. Devo andare anche lo slang, quindi no ma soprattutto per le direzioni, tipo se voglio andare a ovest, west sarebbe, cioè almeno negli altri giochi premo la V, sì. Scrivo solo la V e sa già che devo andare a ovest, invece qua devi scrivere go west, neanche go V, proprio go west, altrimenti non va. E quindi diciamo che sì, devi scrivere un po' di più, però alla fine non è chissà che cosa. In più ci sono molte sezioni che si giocano, diciamo, all'interno di apparati tecnologici. Quindi noi abbiamo questo dispositivo che si chiama QRS, che se collegato da una parte al dispositivo a cui ci vogliamo collegare, dall'altra ce lo colleghiamo noi, in una porta USB che si trova, da quanto ho capito, sotto il braccio. Proprio una porta USB, lo dice così il gioco. Riusciamo praticamente ad entrare dentro al sistema informatico della struttura o dell'oggetto. E da lì il parser cambia, perché noi dobbiamo mettere, poi chiaramente questi comandi sono spiegati in una specie di volantino che è fornito assieme al gioco e che va stampato, dove c'è scritto tutti i movimenti delle mani che bisogna fare dentro a questo cyberspazio, no? Ma guarda. Solo che chiaramente non è che noi possiamo muovere le mani, però dentro al parser dobbiamo scrivere il movimento della mano che vogliamo fare. Bello. Quindi ad esempio lui ti fa visualizzare, no? Testualmente ti dice: hai due banchi di memoria, uno a sinistra e uno a destra, per dire un esempio. Se noi vogliamo prendere quello a sinistra, io scrivo grab left e lui con la mano prende quello a sinistra. E quindi niente, cambia un po' il parser, però comunque è tutto ben spiegato nei manuali, quindi niente di ostico. La musica c'è, assieme anche a delle parti parlate, ogni tanto si sente parlare della gente. Musica molto molto bella, però a dire la verità ho letto delle recensioni dove dicevano la musica bellissima, da brividi, però sinceramente, almeno forse sono io che non l'ho sentita tanto, però cioè, mi sembra nella norma, ecco, la musica. Cioè non mi sembra niente di esageratamente spettacolare, ecco. A livello di come ne stai parlando, comunque a livello di, diciamo, sperimentalità, innovazione, mi ricorda molto i lavori della Infocom degli anni 80. Esatto, esatto. Che ogni titolo era la rivoluzione di quello precedente. Esatto, sì. Sì, no, ma infatti questo è bello perché, cioè, è una novità. Io ho smesso di giocare alle avventure testuali. Io avevo giocato, ne ho giocate pochissime, però, cioè, avevo smesso perché alla fine non c'era niente di nuovo, a parte il fatto che devi leggere la storia. Sì. E invece questo veramente c'è qualche novità, cioè ci sono delle cose un po' diverse, quindi ti fa venire voglia di sperimentare, continuare ad andare avanti a capire cosa ci sarà di nuovo. Poi E appunto pensare che anche. sembrava che la Infocom già avesse già fatto tutto, aveva fatto delle avventure veramente fuori di testa. Eh sì, invece Ce n'è arrivano una questi fratelli. che ti sei perso nell'ufficio burocratico di non mi ricordo cosa e devi destricarti in questo ufficio burocratico, come nelle 12 fatiche di Asterix, presente la circolare a 38. Sì. Ecco, c'è un'avventura testuale della Infocom che era solo quello. Beh, almeno sperimentavano un po' cose nuove. Burocracy, scusi. Stai cercando il nome? Sì, si chiama Bureaucracy, però ho scritto Bureau. Bureau, come quello dell'FBI. Sì. Ucracy, sì. Ah. Bureau. Bureau, sì. Bureau. E quindi appunto c'è... avendo questa mentalità dell'innovazione, infatti, più si va avanti e diciamo non è sempre tutto uguale quello che bisogna fare, c'è sempre una situazione in cui bisogna usare magari un comando oppure un qualcosa che non si è ancora fatto prima, quindi non è sempre il solito vai a sinistra, a destra, su, giù, sali la scala, scendi, c'è sempre qualcosa di nuovo. Poi che altro dire? Ah sì, come ho detto anche prima di iniziare, tutto è in digital delivery, tutto versione digitale e vabbè, tutto quello, farlo. Tutte le cose fisiche che dovrebbero esserci sono tutte da stampare. No, il bello è che a livello di roba, dai, come di gadget, ce n'è tanto, eh. Ce n'è veramente tanti, però infatti. È tutto da stampare. È tutto da stampare. Era, cioè, il meglio è se ti dicono la fantastica colonna sonora da masterizzare. No, da stampare. Da stampare. Da stampare, esatto, la colonna sonora. Chi non stampa le colonne sonore? Cioè, no. Diciamo che qualcosina arriva anche al ridicolo, perché c'è la copertina del gioco autografata da stampare. Stampare, sì. Vabbè. Ma sì, ma infatti ho fatto una ricerca su Google Immagini e l'hai trovata. Secondo me sì. Senza pagare i soldi in più. Sì, anche perché il gioco è anche DRM-free, quindi penso che anche le immagini siano senza DRM. Appunto c'è questa voglia, no, di ritornare ai giochi boxati, dove quelli degli anni 90, no, dove dentro c'era di tutto in gadget. Sì. Fortunatamente non erano da stampare quelli, però questi. No. No, poi lì gadget era curioso perché quelli della Infocom servivano sempre a un certo punto del gioco per andare Esatto, e anche qui lo stavo proprio per dire in questo momento: i gadget che ci sono dentro servono durante il gioco. avanti. Ma servono obbligatoriamente o sono utili? Obbligatoriamente c'è una specie di. Vabbè, oltre all'opuscolo che ti spiega come muoverti dentro al cyberspazio e ti spiega bene, cioè è bello anche perché è un opuscolo proprio fatto tipo a volantino pubblicitario, no? Quindi è anche carino e ti spiega come muoverti dentro al cyberspazio. Sì, diciamo che lì, in quel caso magari ti fai una ricerca su Google e trovi un po' il come muoversi, però ce n'è un altro che è una specie di text dump, no? Un dump testuale di un qualche cosa, dove dentro c'è un puzzle che serve nel gioco, quindi bisogna analizzare fisicamente questo foglio e serve per andare avanti nel gioco. Una domanda, ma il gioco che qui di screenshot, non so se sono screenshot o sono artwork. Volevo chiederti, il gioco ha sia l'interfaccia grafica che testuale o c'è solo testo? No, come ho detto all'inizio, Hai detto all'inizio? sì, Vabbè, ho detto, ma io mi perdo. lo schermo è diviso a metà, c'è cioè la parte Ok. sinistra che è testuale, la parte destra dove invece viene mostrato l'inventario e il luogo dove ci troviamo. Quindi Comunque, queste artwork sono... sì, penso che quelli che hai trovato tu sono artwork, però anche il gioco è, cioè lo stile delle foto che vediamo sembra disegnato, quindi sembra un artwork. Sono molto belli, infatti. Quindi è probabile che tu hai visto proprio lo screenshot del gioco. No, no, ma infatti in quel senso sono molto molto belli. Per la Madonna. Cosa hai trovato? Una cover super cazzuta del gioco, molto più cazzuta di quell'altro. Adesso te la linko e te la faccio vedere. Sembra un film horror più che... Ah, forse hai trovato quella lì con scritto Cypher in basso e il tizio con la sigaretta. Sì, che Ah. ha gli occhi arancioni Sì, luminescenti. sì. Ecco, infatti l'ambientazione prende spunto molto da Blade Runner e anche da Deus Ex. Quindi abbiamo gli impianti, non so, per le braccia, per le gambe, quindi l'atmosfera è quella, ecco. Comunque se su Google scrivi Cypher Text Adventure puoi vedere anche degli screenshot. Cioè, almeno ne sto guardando uno io che si vede bene com'è l'interfaccia di gioco. Ah sì, questa qua. Vedo, vedo. C'è anche l'inventario. Allora, l'unica cosa che ancora non ho detto è la trama, giustamente, un pizzico di Sì, un trama. pizzico di trama. Bisogna dirlo, se no uno dice che è sta cosa. Allora, noi siamo questo tizio, tutto pieno di innesti, di impianti, che si chiama Doggeron. E praticamente il suo lavoro, cioè sì, il suo lavoro è quello di portare delle informazioni da un luogo all'altro, però impiantate dentro se stesso, dentro nelle sue sinapsi. E questo perché nel gioco, nell'introduzione, viene spiegato che praticamente c'è stato la luna praticamente è stata distrutta, e quindi la polvere lunare inibisce tutte le comunicazioni internet, per cui la gente non comunica più attraverso internet. E allora c'è bisogno di queste persone che trasportano le informazioni a piedi. Alla velocità di 56K, Vabbè, a piedi vanno. no, vabbè. Eh sì, a piedi, quindi. Beh, dipende da dove devono arrivare. Quindi cosa succede? Che noi ci svegliamo, no? Ci svegliamo all'inizio del gioco e non sappiamo bene cosa succede, e abbiamo questo codice dentro la nostra testa praticamente, che è corrotto, quindi noi non riusciamo a recuperarlo ma solo una parte, e sembra che un sacco di gente corra dietro a questo codice, e quindi abbiamo questo Mr. Smith che ci aiuta. E invece ci sono i retriever, che sarebbero coloro che retriever significa proprio cioè ritirare, prendere, che invece ci vogliono uccidere, vogliono recuperare il codice. E praticamente tutto il mondo criminale sembra voler mettere le mani su questo codice. E non posso andare oltre perché chiaramente poi Spoiler. ci sono tutti gli intrecci che poi bisognerà scoprire. Perché chiaramente comunque la trama è veramente è bella, cioè ti tiene incollato alla sedia e vuoi andare avanti a scoprire che cosa sta succedendo. Ah sì, cioè alla fine chi si addentra nel post-apocalittico, nel cyberpunk, è di solito chi sì, chi sa destreggiarsi, perché sono generi veramente difficili da gestire. Esatto. No, ma infatti almeno a me come è scritto, cioè, come è scritto bene, cioè si riesce a farsi piacere, ecco. Poi che dire? Sì, ci sono alcuni errori di ortografia che però sono stati. Nella traduzione o nell'originale? Perché tu che lingua Non lo c'è sai? traduzione, è tutto in inglese. Ci sono errori di ortografia in inglese, proprio nella versione originale, che però alcuni sono già stati risolti nell'aggiornamento, quindi niente Beh, di. basta una patch per Sì, risolvere una cosa del infatti. genere. Però è il solito beta testing a pagamento, Ah, vabbè. I tuoi Sì, ma giochi, Pietro, ce ne comunque sono gli errori adesso. di ortografia, Quello, sì, quindi. ma loro lo gestiscono in modo diverso il fatto delle patch. Praticamente loro fanno uscire il gioco. Però anche se tu lo compri nuovo, stai scaricando già quello patchato. Cioè, no, non esiste, per dire, uno che l'ha comprato ieri che sta usando la versione vecchia, ecco. Perché probabilmente vanno proprio a modificare il file e basta, cioè il file di testo e via. Cioè, non è. Comunque bug di sistema, diciamo, dentro al gioco non ne ho trovato neanche uno. Cioè, scorre liscio, tranquillo. È multipiattaforma nel senso Windows e Mac, perché è creato con lo United 3D, mi pare, Engine, che di per sé è multipiattaforma, sì, United. E dovrebbe esserci anche in cantiere un porting per Linux, che però la cosa bella è che dovrebbe anche portare a una versione per Android, che su un tablet, diciamo che come atmosfera sarebbe anche carino. Cioè, beh, è giocabile su un tablet, non è male. Su un tablet è carino, non è male. Sì, sì, infatti, cioè con lo schermo abbastanza grosso dovrebbe essere anche una cosa carina. Per cui, esatto, per cui diciamo che di idee ne hanno abbastanza questi due fratelli. Purtroppo non essendoci neanche la scheda di Moby Games, perché adesso è talmente sconosciuto come gioco, non si riesce neanche a capire bene chi è che ha fatto la musica, se sono stati loro, cioè solo in due, cioè non ci sono molte informazioni, e il sito ufficiale non aiuta. Perché magari se prendi la versione con la colonna sonora, nei crediti della colonna sonora, quel lì lo vedrai, credo. Sì, probabilmente. Adesso sto guardando perché anche il sito ufficiale non aiuta, perché è fatto proprio nello stile del gioco. Quindi non si capisce molto, ecco, è un po' particolare. Infatti non c'è scritto niente. Sì. C'è scritto solo Carlos e Javier, chi sono e cosa fanno. Bene. E basta. Vabbè. Poi. Venduto in tre versioni, standard, collector e deluxe, cambia semplicemente il contenuto, cioè quello che è contenuto dentro quello che vi viene dato in digital delivery, Da stampare. da stampare, esatto. Comunque, Non l'avrei mai detto. comprando la standard c'è comunque tutto il necessario per finire il gioco in qualsiasi caso, ovviamente, perché... Sì, sarebbe ridicolo il contrario. Sì, infatti. Una nota negativa è il prezzo, perché non è bassissimo. No, per essere testuale non lo è. Quanto La standard costa $15. Aspetta, in Italia costa meno però, Sì. arrivo. Sono su Zodiac e su Zodiac l'ho visto a meno, la standard almeno. Prova a Costa la vedere. collector 16 euro qui in Italia. Ah, e invece sul loro sito costa $20, che forse sono 16 euro. Ah, è vero che c'è il cambio. Beh, alla fine costa uguale, ok. alla Sì. fine 20 dollari. Aspetta. Te le dico tutte e tre. La Allora, versione della costa collezione non è tantissima. 12 euro la base, Ok, e qua sono 16 la 15 dollari. collector e 20 la deluxe. Per me non Esatto, è infatti. tantissimo, anche perché se ci vuoi guadagnare, se lo fai per farci anche un po' di soldi, non puoi Diciamo la rischiare. verità, È un prezzo veramente se basso. fosse il retail, la deluxe ad esempio potrebbe costare 30, ma in digital delivery mi dici che devi stamparti tutto, 20 Esatto. sono tanti. Sono un po', infatti. Ma non sono 30, 20, cioè alla fine comunque sono Perché tutto il comunque lavoro che ci tu sta dietro. nel prezzo del gioco ci metti il prezzo dei materiali. Te che materiali hai usato? Sono Non ci bike. metti i prezzi dei materiali, ci metti anche tutti i tipi di Sì, progettazioni, quindi vabbè. sono Come tutti i soldi usare la che ci stampante per stampare il videogioco, non Sì, che c'è. capisci? Allora no, è tutto guadagno praticamente. Eh Ah, beh, sì, è tutto praticamente guadagno? sì. Dipende, se tu non hai un cazzo da fare tutto il giorno e vivi solo per fare un videogioco, cioè, è tutto guadagno. Però Cioè, se tu allora, magari parliamo di leggi di rinunci anche mercato. Tu qualcosa. nel prezzo di una cosa ci metti il prezzo dei materiali. No, Quando vai a ci togliere, ottieni il metti anche la guadagno fattura che reale hai che tu hai. versato. Qui il prezzo dei materiali non c'è perché sono byte. C'è il Allora io non server. posso. C'è giusto il Allora io non server. dovrei C'è pagare giusto l'autista il di un'auto. server in cui Aspetta hosti il gioco. Tu non un attimo. Allora io capisci. non dovrei pagare l'autista di un autobus perché lui non usa dei materiali per. Cosa stai dicendo? Che loro si Cosa mandano sto il dicendo? protagonista Mi che stai porta il dicendo che loro videogioco? fanno un videogioco e dovrebbero farti pagare solo il prezzo dei materiali? No, non ho detto quello, però Sì, se, considerando giusto. che il prezzo dei materiali non c'è, quel prezzo è troppo alto, ok? Per me, va bene? Io E sono d'accordo anche per comunque. Marco, a quanto pare. Sì, è un po' altino in effetti. Oh, te lo devono regalare, quindi. No, vabbè, avrei capito almeno la standard, avrei capito, anzi parliamo della deluxe che c'è tutto, avrei capito piuttosto che $25, 20 euro, avrei capito un €15. un 10 euro, no vabbè 10 euro forse no perché la Deluxe c'ha più cose, però la standard almeno che costa $15, un 8-7 euro to, li avrei spesi anche per la standard. Che poi non è detto, perché magari adesso vedono che non gira molto bene e quindi magari abbassano anche i prezzi, non si può mai dire. Poi dopo dipende da che piattaforme di distribuzione arriva, ci sono le solite piattaforme tipo Steam che ogni tanto danno i prezzi pazzi. E... Esatto. Quindi non si sa. È molto sconosciuto comunque ancora, perché vedo che sul sito, sul forum dove mi sono registrato, continuano a dire aiutateci, spargete la voce sui social network, quindi stanno cercando anche di un po' di riuscire a farsi conoscere. Chiaramente è comprensibile dato che nessuno li ha mai sentiti ed è il loro primo gioco che fanno. Ma non credo avranno problemi, vedo che ne parlano già tutti, anche qua in Italia che è il paese dei caproni, quindi... Esatto, però almeno è una boccata d'aria fresca, ecco. È qualcosa che per un po' di anni non si era mai visto, ecco. È una scintilla di speranza per un genere che era un po' lì. Esatto, infatti. Quindi ne sono rimasto colpito, devo dire la verità. Non pensavo che un'avventura testuale ancora adesso riuscisse riuscisse a farsi piacere ancora adesso, ecco. E perché si sa che adesso le persone che giocano ai videogiochi ultimamente non è che sono tanto, tanto, come si dice, inclini a... Svegli? Esatto, svegli. Tanto... Quindi... Il fatto che anche sul forum si vede gente, cioè gente che dice ottimo gioco, bello, non avevo mai giocato una cosa così, così diversa, significa che anche che c'è gente che non ha mai giocato a delle avventure testuali e che ha iniziato adesso. E gli è piaciuto. Esatto, perché appunto è particolare. E basta, mi piacerebbe vedere una versione boxata, ecco, ma forse sarebbe possibile. Per me sì, però questi giochi qui riescono ad averla magari, ma solo in uno stato preciso, in tutta Europa è fatica. Esatto. E arriveresti a spendere più di spese di spedizioni che per il gioco stesso. Sì, a quel punto sì. Poi dipende. Dov'è? Tipo se lo produco in Francia, no. Per dire Francia, Germania, in Europa, si intende, no? Sì, dopo... Beh, questi volendo, però... essendo spagnoli, magari... In Spagna... la Spagna non ha tutti quei problemi doganali che hanno altri stati, che ti danno altri... Fuori dall'Europa. Semplicemente fuori dall'Europa. Sì. Che poi dipende, ti va tipo andare di culo a volte. A volte non hai problemi, a volte invece... Sì. Succede di tutto. Dipende cosa stanno facendo alla dogana quando arriva il pacco. Se devono per forza aprirlo oppure se lo lasciano passare. Maledetto. Stupida IVA. La cosa buona è che non, come richieste hardware è praticamente ridicolo. Quindi giocabile dalla maggior parte delle persone, anche con i portatili, che solitamente con i videogiochi sono messi male. L'unica cosa è che non supporta risoluzioni a 4 terzi di aspetto, solo 16 noni e 16 decimi. Au. Questo probabilmente perché siccome appunto lo schermo è diviso proprio a metà, chiaramente forse non ci sta in 4 terzi riuscire ad avere il testo e le immagini da un'altra parte. Sì, c'è scritto anche qua nei requisiti, proprio non supportato. Infatti, però... Sai che Direx tu usa il gioco? Quale? La 9. Vabbè, la 9C, dai. Vabbè, non siamo alla 11. Sì, però, dato che Windows XP è ancora supportato, su XP sì. Solo la 9C funziona, l'ultima. Sì. Quindi... No, comunque, fortuna che è abbastanza, non è esoso di risorse, anche perché usando Unity come engine si sa che Unity fa le cose in 3D, cioè non, in teoria non è fatto per, anche lui per fare queste cose, e invece sono riusciti a tenerlo al minimo della sua, della richiesta, ecco. Ah, poi ci sono dentro le opzioni, ci sono delle robe assurde, del tipo c'è un'opzione per far smettere il tizio di fumare. Perché c'è scritto che magari qualcuno lo potrebbe trovare disturbante. Vabbè. Oppure la telecamera Ah, che beh. si muove perché mentre si gioca c'è la figura del personaggio, no, a destra. E ha questa specie di telecamera che si muove in continuazione come se fosse una persona che riprende, ecco. Chiaramente dà più cioè serve più a immergere dentro al gioco, però magari qualcuno lo può trovare fastidioso. Quindi anche le opzioni, non c'è un menu delle opzioni, bisogna proprio scriverle dentro al gioco. Ci sono nelle istruzioni, c'è scritto, non so, turn off camera shake, per Vabbè, dire. però è carino, anche questo fa molto testuale. Esatto. Poi è bello perché anche il mondo di gioco è stato adattato al fatto di essere una testuale, tipo ci sono gli ascensori che parlano e quindi noi dobbiamo scrivere il nome del tizio del computer nell'ascensore e scrivere il piano a cui vogliamo andare, cioè. Comunque è carino, è una bella idea. Come in tutte le avventure testuali, almeno la maggior parte, si muore spesso e un sacco di volte. Quindi è consigliato salvare tantissimo. Anche per salvare devi digitare save. Esatto. Immaginavo. Digiti save e salva. L'unica cosa che, ma almeno alcuni si lamentano, però io l'ho visto in tutte le avventure grafiche, il fatto che c'è un solo slot di salvataggio. Cioè, io almeno per me è normale, nel senso in questo tipo di giochi io scrivo save e ogni volta viene sovrascritto l'ultimo mio salvataggio con quello che ho fatto adesso. Almeno a me sembra normale. Poi, giustamente, anche questo gioco è fatto in modo che tu non ti puoi bloccare, cioè non puoi dire ho sbagliato a fare una decisione 20 minuti fa e adesso devo rifare tutto il gioco. Cioè, comunque in un modo riesci ad uscirne dalla situazione. Perché c'erano anche quei giochi lì una volta, c'erano. Esatto, e allora lì sì è chiaro che non è che poi, cioè se sovrascrivi in continuazione l'ultimo salvataggio è un po' un casino. Se non mi sbaglio anche Zork 1 aveva questa cosa qua. Mi ricordo, aspetta, Rise of the Dragon, come si chiamava? Io mi ricordo in Zork il primo che c'era un punto dove c'erano delle creature che ti rubavano gli oggetti nell'inventario. E quindi Ah, lì se allora. salvi dopo che te l'hanno fregato, sei un po' messo lì. Anche il Rise of the Dragons hai praticamente un tot di tempo per finire la storia, quindi se tu perdi degli eventi chiave non la finisci più. Ah. Quindi sì, in quel caso forse sì, però in questo, cioè, il gioco è fatto in modo, come ho detto anche prima, cioè fatto apposta per avvicinare le persone alle avventure grafiche, quindi per ogni stanza in cui sei c'è sempre una soluzione per qualsiasi cosa. E il bello è trovarla, appunto. Quindi. E la cosa buona è che ogni volta non dobbiamo sempre compiere le stesse azioni. Nel In che senso? Questo non lo capito. senso, non, se io. Cioè, no, non è ripetitivo come gioco. Se Ah, io ok, adesso ho capito. ho una. Cioè, non si ripete in continuazione la stessa situazione del tipo esco dalla porta, mi stanno sparando, spara con la pistola, Sì, basta. sì, Cioè, sì. c'è sempre qualcosa di diverso, tipo, non so, usa il taser contro il muro bagnato per far sì che la torretta venga distrutta perché è collegata al muro che è bagnato. Cioè, capite? Una cosa un po' di inventiva, c'è cioè, ogni Un po' tanto. contorta. Bene. Avete domande? No. No, i miei dubbi li ho già espressi man mano. Mi piace, cioè io non so giocare avventure testuali perché perdo la pazienza troppo facilmente, però mi avresti convinto a comprarla Se costava di se meno. eh? se costava di meno. No, no, se esisteva il retail, se avevo i soldi, e se costare il retail così andava bene. No, no, però secondo me l'unica cosa è che bisogna sapere un po' l'inglese. Beh, per forza. Perché sì, è un inglese abbastanza semplice, però è chiaro che bisogna capire bene le frasi. Vabbè, se ti vuoi godere un'avventura grafica, devi capire bene che una frase completamente, senza dover usare Google Translator per ogni frase. Se no... Sì, però, cioè, sì, chiaro, però in questo caso, siccome si tratta proprio di descrizione di luogo, è chiaro che devi capire bene... appunto. Esatto. Potresti non capire qualcosa e... pensare a qualcosa di completamente diverso da quello che in realtà è. Esatto, esatto. Per dire, io ad esempio non ho capito bene la porta USB dov'è, capito? Se è nel braccio oppure dietro la testa. Però, cioè, non è un dettaglio che mi serve nel gioco, perché io scrivo con plug me e basta, cioè connettimi e lui sa già cosa deve fare. Però è chiaro che se in una descrizione di una stanza io non riesco a capire bene, non so dove si trova il libro, per dire, non va. Secondo me ce la farà ad avere un sequel almeno sto gioco, secondo me. E anche secondo me, perché vedo che almeno nel forum si parla di, non so, cioè si parla di introduzione al mondo delle avventure testuali e che forse ci sarà qualche cosa. Mm-hmm. Addirittura c'è stato un post che però mi pare che poi hanno modificato, forse perché era di uno dei due fratelli che diceva nel prossimo episodio, tipo una roba del genere, però poi l'ha modificato per non per fomentare non, gli entusiasmi. Esatto. Va bene. Io ho finito. Quindi, valutazione? Valutazione, io gli do 3 banane. Aspetto il suono. Anch'io. Ok. 3 banane perché manca l'edizione fisica con la sua bella scatola grossa. No, ma diciamo che... non è il fatto che manca, è la roba che ti viene data è un po' una, sembra un po' una presa in giro, dai. Esatto, è quello. Della serie stampatelo da solo, sembra una presa in giro. Esatto, esatto. A quel però, punto tu dici me lo scarico e vaffanculo. Sì, però veramente merita, cioè proprio sono rimasto colpito da questo gioco. Magari in un seguito ti regalano la stampante e siamo a posto. Esatto. No, no, è nel 2 che tu sei un uomo stampante nel 2. No, secondo me faranno una super collector edition dove incluso sarà una stampante. Sì. Adesso... Siccome il primo episodio la stampante sarà senza cartucce. L'episodio successivo metteranno anche le cartucce. No, è lo scopo del protagonista, è trovare le cartucce. Ora ho una domanda da farvi. Stavo navigando su Zodiac guardando i cosi, le caratteristiche di Cypher, no? E ho visto questa avventura grafica che non sapevo esistesse. Ora vi dirò un suo punto di forza e voi mi spiegate cosa vuol dire. Aspetta che vado a vedere anch'io. La prima avventura di sempre in vero 3D, giocabile anche in 2D. Paper Mario. Ah, no, ok. Vero 3D non intende il 3D totale, intende gli occhiali 3D. Allora, vabbè, lasciamo perdere. Ma di cosa stavi guardando? The Walking Dead. Allora è una cazzata, perché in Sly 3 potevi fare anche i pezzi in 3D. Non è un'avventura grafica. Vabbè. E infatti avevo visto che c'erano gli occhiali 3D. Allora, è un'avventura grafica... cioè, non devo parlare di sto gioco, però mi ha stupito vederlo. Dove il protagonista interpreta la cantante, credo sia la cantante, di un gruppo di tippe mezze nude che fanno rock di quello mortifero. E dagli screenshot si vede che gira tra zombie e scheletri. Non so quale sia lo scopo. Però ho guardato le recensioni in giro, ne parlano male, ma però del suo predecessore, che era Jekyll e Hyde, mi sembra, sempre degli stessi creatori, ne parlavano peggio. Ah. Quindi bene o male, dai, è salito. Diciamo che è un B-movie, ecco, le scene in 3D si vedono su Google. Sì, vabbè. Lasciamo stare. Sì, sembra The Blair Witch Project. Però dai, mi ispira perché a me l'horror trash piace, però ho letto che è corto e che non è il massimo. Più che altro cerca di vendere dal fatto che le protagoniste sono mezze nude. Beh, non è un male, dai. No, però è un espediente che vuol dire Subito. che dietro, sottofondo c'è poca sostanza se tu vai a usare Esatto, sì. questo. Vabbè. Bello questo artwork. Da stampare. Da stampare. No, è questo gioco mi ha stupito perché non l'avevo mai sentito nominare. Ed è uscito l'anno scorso. Va bene. Aiaia. Chi tocca? Potresti. Boh, potrei parlare io. Potrei parlare io. O non potresti. Prego, tu va a vedere chi è. Oggi sarò, come dire, innovativo. Quindi, invece di parlare di giochi per il PC, passerò alla Wii. Alla Wii. Alla Anche Wii. Claudio parlerà della Wii dopo, sai? Bene. Wii Sono magica o Wii? O Wii non magica? Magica. Però il gioco di cui stai per parlare tu non era magico. Non ce l'ho No, mai. il mio gioco non è magico, il mio gioco è bello qua, vado a prendere, anzi non ce l'ho io, Ma vado a non andare. prendere. Rimani in casa. Il gioco di cui parlerò sarà Smash Bros. Brawl. Super Smash Bros. Super, c'era anche Super, non lo ricordo. Sì, anche Super Super. Smash Bros. Bro. Brawl. Che sembra uno scioglilingua. Allora, Super Smash Bros è, E nella diciamo, Wii una parola in più. È una saga di videogiochi che è partita dal Nintendo 64, mi pare, o ancora prima, o dopo. Nintendo 64, mi pare, sono Sempre usciti. paura, fanno. Ah, Sono parla, scusa, è che qua partito. c'erano problemi Sono nella morto. regia, abbiamo risolto. Penso che anch'io ho problemi alla regia. Diciamo che non è un gioco nato con la Wii, però con la Wii è arrivato l'ultimo episodio. È nato col 64. Con 64, l'ho detto bene. Gli altri due non li ho giocati, sinceramente, non avendo le console le console, diciamo, di questi giochi qua. Però ho giocato ovviamente all'ultimo di cui parlerò. In sostanza questo gioco è un picchiaduro, un po' particolare, perché non è un normalissimo picchiaduro dove c'è uno spazio limitato, ci si pesta e basta. Lì c'è una mappa abbastanza, a seconda della mappa, abbastanza estesa. Hai una serie di abilità abbastanza, cioè una serie abbastanza enorme di abilità che puoi fare, di combinazioni di abilità, oggetti che casuali, tipo le stelle di Super Mario che ti cadono in testa, cioè cadono in testa non a te ma al Aganon. Claudio in questione. Aganondorf. No, te con qualsiasi personaggio che devono stare in testa. Adesso ti faccio ora una domanda espresso. E Ganondorf in funziona. quale Smash Bros è comparso? Dai, sparane uno. Secondo In me quale cosa? In quale Smash Bros compare GameCube. per la prima volta Ganondorf? Io direi GameCube. GameCube? Sì, l'accendiamo, sì che l'accendiamo. Cosa devo È dire errato. io? Sì, è nel GameCube. Sì. Credo. Sì, nel 64 non mi pare ci fosse. boh. Vabbè, comunque tornando al gioco, sono un sacco di prente, i personaggi più importanti, diciamo, della Nintendo, vecchi, più che altro, vecchi e nuovi, diciamo, nuovi poi, disponibili al tempo, tipo, so, i Pokémon, ci sono due personaggi dei Pokémon, mi pare. Sì, Jigglypuff sta dalla Sì, principessa. No, ce ne sono tre. Prima. tre, Pikachu, Jigglypuff e l'allenatore di Pokémon. No, c'è anche Lucario. Che Lucario, sostituisce quattro. Mewtwo. Minchia, sono tanti. Poi ci sono personaggi di altri giochi tipo F-Zero, tipo Mario. vabbè, Mario, Luigi e Peach. Ah, volevi dire il personaggio di F-Zero, Capitan Falcon, c'è. Cioè. No, stavo pensando agli altri personaggi. Vabbè, comunque sì, è Capitan Falco. Poi personaggi tipo di Star Fox. sono due personaggi di Star Fox. Quello non è Star Fox. No, però ero in ritardo. Di Star Fox. Globar. Ecco, lui c'è. Eccolo qua. No, mi sento poi... Pepper non c'è. Kirby. Quindi gli altri personaggi di Kirby. Cioè, Kirby più i vari personaggi di Kirby. Personaggi di Zelda come la principessa Zelda, Link in versione cartone gay. Frozone, esatto. Link Frozone si chiama. Ganondorf come è stato citato. Luce. Ed eccetera, cioè, sono tanti altri. 35 personaggi mi pare in totale. Sono 35 più 14. 5 più 14 sbloccabili. 49. Mi ricordiamo che c'è anche Nash di Earthbound. Diciamo... Tu parti con 35 personaggi e poi li sbloccherai man mano che diciamo giochi. Che il gioco cerca di vendertene di più perché alcuni hanno due forme, tipo. Sì, tipo, cioè tipo Zelda Samus. Che si trasforma in... Esatto, Samus che quando usa la mossa finale diventa... perde l'armatura e vabbè, così via. Diciamo che offre varie modalità di gioco e un sistema di achievement, diciamo, un po' particolare. Tu facendo varie cose sblocchi dei trofei, più che altro, dei gran trofei. Questi trofei a volte danno anche dei reward, come personaggi nuovi, per esempio. Sì. Tipo ti può capitare, che so, finisci la storia, cioè all'inizio sblocchi i personaggi finendo la storia principale, la classica modalità storia che sei in tutti i giochi. E poi ci sono varie modalità, come la modalità classica, che è quella che devi praticamente da solo sconfiggere a ripetizione tanti nemici, diciamo, particolari. La modalità boss, dove incontrerai tutti i boss della storia, tutti uno dietro l'altro. La modalità All Star, insomma, ricordo quella. Devi con un personaggio battere tutti gli altri uno per volta. Cioè, tipo, esatto. Quando tu incontri Mario, devi battere sia lui che Luigi che esatto. Bowser. Che devi battere praticamente i personaggi di ogni serie. Insieme, di ogni serie, esatto. Tipo, serie di Super Mario, serie di Pokémon, così via. E poi c'è la modalità più, diciamo, gettonata, che sono la modalità Brawl. Cioè, quella... Scontro a tempo, raccogli le monete. Scontro tutti contro tutti, che ci sono varie, ci sono tre modalità che puoi farla. Come è stata anticipata la versione a tempo. Brawl cioè, a tempo. Esatto, cioè chi ha fatto più raccogli le più monete. Morti. Sopravvivi. È vero, sopravvivi, bravo. Esatto. No, la versione la versione a tempo, dove devi fare più, come dire, morti possibili in tutto il tempo. Uccidere gli altri, non morire te, però. No, più morti possibili, nel senso, ammazzare qualcuno, ammazzare la gente. Ah, ok, sì, non morti. Morti si intende quello. Vabbè, mi sembrava un po' scontato, Però non si sa mai. Adesso. La versione a monete, che non ho mai usato, cioè ho giocato tipo due volte, poi è veramente noiosa. È una schifezza incredibile. Veramente devi picchiare la gente, far uscire le monete e raccoglierle, chi fa più monete vince. E la versione più, come dire, com'è più gettonata, che è la versione a vite. Sopravvivi! Tu hai un tot di vite che prestabilite e il primo, cioè... Tutti quelli che muoiono, ogni volta che uno muore non può più giocare, l'ultimo che rimane vince. Last man standing. Esatto. Non ho mai capito cosa succede se tipo utilizzo tipo l'abilità di Bowser che ti abbraccia e mi butto di sotto. Guarda chi ha toccato per prima il fondo. Sì, ma il Bowser cade per secondo comunque. Esatto. Quindi vince Bowser in quel caso. Vincerebbe Bowser. Non me l'avete mai voluto far testare sta cosa. Io tutte le volte. A me sembra sia successo. Boh, no. Comunque si vede che lui che ti pancia dall'alto, quindi è quello sotto che cade. Ci puoi andare logica, perché vai. Anche quando non fai come ultimo colpo, ti compare la. Tipo, prima la kill di uno e poi la kill dell'altro. Potrebbe succedere una situazione di stallo se tu lo fai, però dentro al pesce della mappa degli Ice Climber. Se tu ti panci dentro la bocca del pesce, chissà cosa succede, esplode tutto. Quella probabilistica applicata questa. Vabbè. Comunque. Diciamo che c'è una grande varietà di personaggi, diciamo, c'è molto da giocare alla fine per imparare a giocarli tutti, così. No, alcuni fanno talmente schifo. E soprattutto, ma sì, ma anche soprattutto, Vabbè, fanno schifo, però si è dimostrato che certi personaggi, come dire, che sembravano schifosi, possono diventare forti, volendo, se Fammi gli un esempio obiettivi. applicato. Ma Ness, Ness non è deve... forte, De ma Ness è Ness non... forte, però bisogna saperlo usare, Sì, perché lui ok, per Ness salire su deve parla, avere non una buona parlare, abilità cioè con la chi parla levetta. sopra non... Oh, è ovvio che poi capisci quello che vuoi te. Io ti dicevo, Ness, io mi ricordo per almeno un anno che abbiamo giocato, la gente, voi lo snobbavate. Poi una Certo, volta... perché il gioco si buttava di sotto quando usava. Esatto. Come quando Quindi... usa Yoshi che esplode con le Anche bombe. Yoshi, stessa cosa di Yoshi. Voi se guardate, il primo, se ci fosse una statistica, il primo anno di gioco, voi non avete toccato personaggi come Yoshi e Io Ness. sì. Poi Sì, però avete anche snobbato l'ho subito. abbandonato. Io non vi ho mai visto giocare contro di me con Yoshi per il primo anno di gioco. Poi vabbè, non parlo di ultimamente. Va Quindi bene, anche Zira lo usava. personaggi che sembrano stupidi possono essere forti alla fine. Non è vero che ci sono. Marco, te chi usavi? Parte Jigglypuff. Io mi vergogno a dirlo. Peach. Mi hanno indovinato, cosa Peach? Ci credete che io non ho mai giocato a Super Smash Bros? Sì, se non hai avuto console Nintendo non sei potuto giocare. Se hai avuto console Nintendo è obbligatorio giocarci, quindi... Io purtroppo ero un PlayStation Boy. Un PSX boy. PSX si dice. Ho Molto avuto sensuale. solo ho avuto solo il Genesis e il Mega Drive, il Sega e la PlayStation. Allora eri anche un Sega Boy. Ma non è bello Così dire è così. brutto dirlo. Cavolo, sei stato sia un Sega Boy che un PSX Boy. Comunque, tornando al gioco, è un gioco che Cos'è? ha una Più di buonissima 20 però. rigiocabilità, nel senso, passi veramente il tempo come un qualsiasi picchiaduro alla fine. Più di 200 ore. No, il picchiaduro ti Ma rompe. Qui c'è più variabilità. qui c'è più variabilità, perché cioè, ci sono più cose. Più modalità anche interne, tipo la modalità Brawl, tu pu puoi giocare senza oggetti, con alcuni tipi di oggetti, con penalità sulle persone, quindi magari potresti provare, se vuoi provare un po' la difficoltà, fare una modalità Brawl contro il computer e mettermi che io parto con il 100% di danni. Ecco, non ho parlato del combattimento in sé, di come si muore, diciamo. Praticamente se tu finisci ai lati dello schermo o cadi di sotto, così... Così, cose del genere, diciamo che mu muori, quindi esplodi. Ed un'esplosione che arriva e muori. Praticamente, ogni volta che qualcuno ti colpisce, tu guadagni del danno, praticamente, una percentuale di danno. Parti dal 0% e arrivi man mano fino a che riesci a sopravvivere. Perché man mano che ti sale il danno, tu ogni colpo che ricevi ti sbalza sempre di più. Quindi quando arrivi a un tot di danno tu rischi di volare via e morire miseramente. C'è una fisica dei voli che è molto ben studiata. C'è Sì. scritto qua, l'engine si chiama. Aspetta, ho cambiato pagina. Vabbè, te lo dico subito. Forse più dopo che subito. Si chiama AVOC. Physics Engine AVOC. Ah, sì, lo conosco. Vediamo altri giochi fatti con l'AVOC. Tutti praticamente. Ce ne sono quanti ne vuoi? Sì, un sacco. Sonic Generation, Resident Evil Operation Raccoon City, per Skyrim. dirne uno. Prosegui, Riccardo. Beh, aspetta un attimo. Dove ero rimasto? Ah, i combattimenti. Dopo ci sono molti. Gli strumenti che si dividono in strumenti generici che hanno più che altro cioè veramente c'è un po' di tutto di vari personaggi ovviamente cioè varie cose che succedono anche nei giochi Nintendo e poi ci sono delle Pokéball ovviamente molto divertenti perché funzionano come gli strumenti diciamo gli aiutanti che gli strumenti di fine sono sempre degli aiutanti quelli che intendevo io. E poi le Sono Pokéball che strutture random, evocano. diciamo. Esatto. E le Pokéball che ovviamente uscirà sempre un Pokémon. Ovviamente. Che ti aiuterà come aiutanti. Poi ci sono strumenti vari tipo mazze da baseball, martelli. Ce ne sono quanti ne vuoi di Coltelli. che sono stati presi da vecchi videogiochi, se ci guardi, Ma tipo non sono usati nel mondo di vecchi. Kirby. Metà della roba viene da Sono, questo. vengono da, non, dire, non vecchi, vengono semplicemente dai videogiochi Nintendo. Sia cioè, nuovi che vecchi. tutti meravigliosi. E diciamo che dà un sacco di varietà al gioco. Non è un semplice picchiaduro, anche se alla fine il genere è quello. Cioè, tu lo, volendo, togli tutti gli oggetti e fai chi vinca il migliore, lì è proprio abilità col joystick. Poi se ti vuoi divertire a vedere cosa succede e chi ha più culo, allora ci butti tutti gli oggetti e vedi. E vedi. Il problema è che nella varietà delle mappe il culo può capitare anche senza oggetti, ovviamente. Sì, sì, sì, anche gli eventi della mappa rompono una volta. Perché le mappe sono molto molto complesse. Non sono semplici mappe da picchiaduro lineari dove ci si picchia e basta e non succede niente. Puoi sfruttare anche gli elementi della mappa stessa. Poi ci sono mappe lineari, perché esistono mappe totalmente lineari. E poi ci sono anche mappe molto, molto complesse e molto frustranti anche. Tipo la mappa di Mr. Game & Watch. Sì, che devi stare attento a qualsiasi cosa. Quello lì, a parte il fatto che la colorazione bianco e nero ti dà un po' di fastidio della mappa, cioè non capisci mai se è un elemento che può far danno o è semplicemente un elemento grafico della mappa. Dopo un po' ti abitui che tutto fa male e quindi eviti tutto. Sì, però artisticamente ricrea veramente bene il Game Boy, il Game Boy, esatto. No, Color, quello no, il Game Boy prima, il Game Boy classico. Game Boy Mattons. Il Game Boy basta. No, il Game Boy Mattone. Vabbè, Brick. Potrebbe dire Brick allora. L'unica cosa Nintendo che ho mai avuto. Non devi dire Brick. Brick è brutto. Sì, ti ricorda molto la Wii Magica, vero? Di la verità. Chi? La parola Brick. Brick. Ti dovrebbe ricordare la parola. Ah, vabbè, adesso non entriamo. Vabbè, termini tecnici. Non entriamo nel Bricking. Ho una domanda per Riccardo. Posso? Io ce l'ho. Vai, secondo te avrebbero fatto meglio a inserire più personaggi, nel senso tipo il mondo di Super Mario, mettersi anche Todd, Waluigi, tutti? Guarda, io avrei fatto, se voglio essere sincero, un sistema tipo a patch, cioè un sistema che mi consente più avanti di aggiungere, cioè DLC, vuoi dire DLC, esatto, gratuiti, che aggiungano magari semplicemente personaggi man mano. Mi ovvio che gratuiti. Se vuoi grazie, a tutti piace la roba gratuita. A parte chi la produce. Comunque, diciamo che tipo, se non vuoi creare subito, cioè, sai, un gioco c'è una fase di sviluppo. Se tu vuoi fare tutto, non ce la farai mai fare tutto e fare uscire un gioco. Magari lo fai uscire con, dico, 40-50 personaggi. E poi man mano, tipo due mesi dopo, decidiamo, facciamo uscire altri 15 personaggi. Dando più varietà al gioco. Cioè cose di più al gioco, magari aggiungendo anche strumenti, cose del genere. Leggendo così un'intervista al creatore della saga, non mi ricordo come si chiama, sul prossimo, quello per Wii U, ha detto che il numero di personaggi rimarrà bene quello lì, cioè sale o scende di uno massimo, perché sennò è ingestibile. Diciamo che la cosa difficile da gestire è che se vuoi fare un gioco fatto bene, un picchiaduro, devi fare in modo che i personaggi siano bilanciati tra di loro. Non puoi fare che un personaggio sia troppo più sgravo di un altro. Quindi siccome già su 50 personaggi è difficile mantenere una sorta di bilanciamento, che è quasi impossibile mantenere alla fine un bilanciamento, averne un centinaio è un'utopia assurda. Cioè, esci un personaggio, sarà sicuramente più forte o troppo più debole, ecco. Anche se però, ai fini del divertimento, dico, a me piacerebbe averli tantissimi personaggi in più. Personaggi da Nintendo che mi piacerebbe giocare sotto forma di... Certo. Picchiaduro. Poi, boh... Se la Nintendo ha detto così, probabilmente farà così. Poi c'è anche... Smash Bros. C'è anche la parte online. Che ho provato, anche quella. Praticamente... ti trova o in modo casuale delle partite con altre persone che diciamo semplici brawl, che adesso non ti ritrova più. Non ti ritrova più? No, non arriva più nessuno, non lo fa più nessuno. Purtroppo già quando lo provavo io c'era da aspettare abbastanza. Adesso proprio zero. Io ho provato per un'ora. Adesso girano solo su quello di Mario Kart. Smash Bros. È proprio vuoto. Ma alla fine non era divertente. Oppure c'è la funzione, diciamo, che non è male. Che ci si mette con il codice amico della Nintendo. Si puoi giocare con gli amici. Tipo, io c'ho un amico che abita in Puglia, per dire che non vedrò mai. Cioè, vedrò una volta all'anno. Ti appareste? Io, vabbè, ho detto Puglia perché sono romagnolo, quindi distanza. Diciamo che comunque puoi giocarci distanza e divertirti comunque. Senza Magari pagare il treno per andarlo a trovare. dogana e cose Minchia, dogana. varie. Vabbè, No, se esiste. vabbè, dai, come si dice quando la bolletta telefonica. Vabbè, lascia stare. Sì. Non, in questo momento non. Vabbè. Quindi diciamo che quella funzione lì è carina. Se fosse più popolata sarebbe carina anche la versione casuale che trovi gente a caso, diciamo. Che c'era anche la versione a scommesse, cioè praticamente tu non volevi giocare, potevi scommettere sulle partite in corso e Sì, perché potevi potevi giocare, potevi guardare la partita come spettatore. vedere le partite. Esatto, e poi potevi scommettere, ovviamente le monetine che guadagni in alcuni giochi, Oh yeah. minigiochi lì, potevi scommetterle e ovviamente potevi vincere e guadagnarle. Peccato che non cavolo. E ne avevo vinto abbastanza così. Ero un bravo scommettitore. Sì, quello sì, però non servono a niente quelle monete, purtroppo. Ma sì, infatti, non sa niente. Era divertente scommettere e vedere cosa succedeva. Ok, poi cos'altro dire? C'è un piccolo editor per creare le mappe anche, vero? Ma proprio qui. L'editor è abbastanza, cioè, abbastanza limitato alla fine. Perché, soprattutto graficamente. Però puoi fare cose abbastanza complesse alla fine, comunque, no? Simpatiche. Pratiche, esatto. Tipo puoi fare una mappa per sbloccare il trofeo dei 999 pugni con Kirby, mi pare. Di seguito. La No, devi combo. arrivare al massimo dei danni, il 999%. No, no, non era quello allora. Io Ah, parlavo di quello per quello, capito? Di combo. Ah, quello le delle combo. combo, è vero, c'è anche quello delle combo, sì. Quello delle combo, devi fare la mappa apposta per incastrare il nemico e farla, però. Sì. Però alla fine non c'è stato grande divertimento. Anzi, c'era anche un servizio sempre su internet, sempre col wifi, che però hanno disattivato nel 2009, mi pare, nel 2010. Che praticamente tu una volta a settimana, mi pare, ti arrivava una mappa così, insomma, che aveva fatto qualcuno. Sì, è vero, me lo ricordo che me l'avevi detto. Solo che mi sa che, ad esempio, su Wikipedia avevo letto tempo fa, si guardo, che praticamente avevano disattivato i servizi, probabilmente ne Perché aveva su qualcuno come Claudio aveva Wikipedia. le mappe e nomi vietati ai minori. Ascolta, è un Esatto. gioco fatto per i diciottenni, cioè tu non sei Esatto. preparato a certe mappe, è inutile che si metti a Io sì, ma giocare. sono bambino di 3 anni, accende, vabbè, 6 anni, accende la Wii, arriva la mappa inviata da Variopunk, che si chiama La Stanza del Sesso. C'è qualcosa che non va. Guarda, Kirby dice un sacco di parolacce, ma nessuno si lamenta. Perché le dice sottovoce. No, dice in una lingua particolare. Esatto. Swahili. Comunque era carino, ma alla fine non aveva tutto il senso. Non aveva senso. Esatto. Poi boh, direi basta, io finisco qua. Avete Ci lasci così. domande? Avete domande? Come Una sempre. domanda sì, qual è il tuo personaggio preferito e qual è il personaggio che odi di più? Il personaggio preferito, diciamo che bisogna vedere. Cosa intendi il mio preferito? Che uso di più era Kirby. Però ho iniziato con un altro personaggio. Avevo iniziato con Pit, mi pare. Ho giocato a Meta Knight. Poi ogni tanto ne provavo uno diverso. Anche il Link. Quello Frosone di solito utilizzavo. Personaggio che odio di più alla fine non c'è. Sono tutti abbastanza carini come personaggi. Ike e Mart, due deficienti. No, sinceramente non mi dispiacevano neanche loro. Solo voi passavate il tempo di insultarli, Sì, perché li hanno incastrati senza motivo, cioè potevi metterci due personaggi migliori E al posto poi uno loro. dei due gestisce Idea Soft Blog. Ecco. Sì, vabbè. Vabbè. Sì, era altro invece Wikipedia, dai, tanto ormai. E indovinate chi è Più chi. che altro sono due persone completamente identici, quindi potevano fare, se volevano fare, potevano fare un pochino più di Potevano non qualche farli e differenza. fare personaggi come Valuigi, ad Oppure non esempio. farli e basta. Ma personaggi come Valuigi, guarda, vedi, dopo cosa abbiamo? 10 personaggi di una sola serie. Comunque Mario lavorano da tutti sulla solo. stessa serie. Wario, diciamo che può far sempre parte della serie, diciamo, Ne è parla amico di. diviso. Te lo vende come a parte, Sì, Mario. perché lui comunque ha i suoi giochi a parte, Si è dai. creato il suo, si è Sì, ritagliato il sì, sì. suo piccolo universo Però d'amore. comunque ha a che sempre fare con Mario Oh, che e Super bello. Mario. Vabbè, posso dire io quali erano i personaggi che usavo di più per gli No. esercizi spettatori? Ovvio che Chissà chi no. userà Punk. Vabbè, a parte Wario, che è stato il mio idolo e ha ispirato il No. nickname. Dopo ho iniziato ad alternare Peach, Rob Considerando e Zelda. sì. Io E Zelda. Sì. invece ero un Ganondorf NES tutta la vita. Ness Poi quando voleva. l'hai usato nella parte finale, Quando diciamo. voleva rompere i coglioni, prendeva la scimmia. O Yoshi. O Yoshi. Ah, io mi ricordo che come scala del tempo è stato Ganondorf, poi Scimmia, poi. Scimmia, non è neanche di Beh. Diddy Kong. Ah, no, prima anche Donkey Kong, quello Sì, grosso. io sono un grande fan della serie, quindi ho usato anche loro due. Quelle scimmie. Ness è stata una Scimmia. cosa abbastanza recente, diciamo. La rivoluzione finale. Esatto, Quando ha l'evoluzione. imparato a giocare. Tu che evoluzione Vincevo anche prima. Prima sei o poi. regredito più che altro, però. Sì, così. Adesso. Basta, basta, basta. Ganondorf un No, vecchio diventa un basta. Non Ness. stiamo giocando a Smash Bros. Litighiamo quando giochiamo. Riccardo, a lei la parola. Smash Bros. È il gioco che è obbligatorio comprare con la Wii. Sì, perché non ci sono tanti giochi Sì, recenti, vabbè. Oltre, no, i primi diciamo. 3 anni c'era solo Io quello credo e che Mario tu debba Kart. comprare per forza quello e Samba de Amigo per farti Diciamo che certo. è uno di quei Basta parlare di giochi. Samba de Amigo. Oh, ma io sto parlando. È uno di quei giochi che comunque, se non li compri, cioè è quasi obbligatorio comprare, che sono giochi di punta della Wii, diciamo. Sono come Smash Bros, Super Mario alla Mario fine. Kart. Quando è uscito Mario Kart, Mario Galaxy. New Mario Bros. no, ma già Mario Galaxy e Sunshine sono già di più di nicchia. Quindi sono quei tre WarioWare. titoli di punta. No, cosa dici? Guarda che Mario Galaxy 2 è il gioco che ha preso il voto più alto, Vabbè, però diciamo che non sono i titoli che attraggono, sono, diciamo, quelli che hanno, come dire, attratto di più subito dall'inizio. quindi dicevi? Dicevo, mi sono perso comunque. Voto in banane, eri arrivato al voto. Voti in banane, boh, cioè, possiamo dargli un mezzo voto, un 3 e mezzo. Un 3 mi sembra poco, un 4 mi sembra troppo, diciamo. Sì, certo. Per un picchiaduro, poi non so. Scusa, il suono era molto forte, puoi ripetere? Diciamo Dicevi. che per un picchiaduro non me la sento di dargli un voto altissimo, diciamo. Però è un gioco che comunque mi ha intrattenuto abbastanza. Mi è piaciuto, però dopo un po' stufa, alla fine è sempre un picchiaduro. Però alla fine, contro gli altri picchiaduro, ti intrattiene di più. Diciamo che le sue 200 ore rispetto alle 10 magari di un altro videogioco. Esatto. Un picchiaduro normale. Dopo un po' di volte che l'hai finito, cioè una volta che l'hai finito, fai sempre più fatica a rigiocarlo alla fine, perché è abbastanza piatto. Ma sai, forse il difetto che gli fa avere 3,5 è anche che qui per divertirti devi avere della gente che conosci che gioca. Anche questo, la modalità massima, cioè la difficoltà massima, diciamo, a parte alcune modalità, ma tipo nella classica modalità brawl, mettere tutti i nemici in modalità massima non rende. Perché alla fine li batti facilmente. Arrivato a un certo punto. E poi c'è sempre la componente che giocare da solo annoia abbastanza. Dopo un po'. Ma quella è una cosa anche soggettiva. C'è chi si diverte di più giocare in un single player nelle modalità più difficili, tipo la modalità dei boss, la modalità All Star, così, modalità impossibile. È comunque abbastanza competitiva. Quindi magari uno. Chi gli piacciono questi generi di giochi difficili potrebbe anche divertirsi di più che giocare con altra gente. Poi queste sono cose soggettive. Sì, può dare. Sì. Infatti, diciamo, offre svariati modi per giocare, quindi dovrebbe accontentare un po' tutti. Esatto. Molti target, diciamo. Boh, io ho finito qua. Ok. Allora prendo la parola io, se non ti dispiace, VarioPunk. No, no, a me non dispiace un cacchio. Ok, non gli dispiace, benissimo. Allora, per oggi, dato che siamo sempre su argomenti Wii, anch'io passerei su Wii. E parlerò di un titolo importante, ma non importante in senso positivo, ma solo in senso negativo, perché oggi voglio solo di parlare male. Quindi, ascoltatori e fan della saga di Tales of Symphonia del GameCube, gioco rispettatissimo, non l'ho mai giocato, non ascoltate questa parte perché io parlerò malissimo del sequel per i Wii. Dawn of the New World. Quindi, Riccardo o Osira, se avete giocato quello prima, non ascoltate. Non ci ho giocato. E non ti perdi niente. E tu, Riccardo, allora, hai giocato, no? Aspetta, ripeti un attimo. Tales of Symphonia si chiamava, del GameCube. No, non ci ho giocato. Ok, allora possiamo parlare tutti bene, cioè male, di questo disastro. Disastro. Allora, molto bene. Tales of Symphonia, Dawn of the New World, un gioco per i Wii, è, come ho detto prima, il sequel di Tales of Symphonia del GameCube. Rispettatissimo il primo, anche non ho letto solo buonissime recensioni, perché comunque faceva rispecchiare gli RPG nel GameCube. Che termine avrei dovuto usare? Rispecchiava gli RPG nel GameCube perché erano pochissimi, cioè c'era solo quello, Sky of Arcadia, sì, e tanti altri che non conosco. La serie Christoph Chronicle di Final Fantasy. Oddio. Sì, quello è schifo puro. I bambini col testone. Ecco. Una parola molto semplice per descrivere Tales of Symphonia Dawn of the New World, RPG super bimbo minchiata. Super bimbo minchiata. Super bimbo minchiata. Tipo Rattata, minchiata. Perché? Perché semplicemente guardando la grafica del gioco capirete subito che è genere tipo con occhioni, personaggi maschili tutti froci, con gli spadoni. Non ci sono mezze misure, eh. No, li sto guardando adesso. Io sarò spietato in questa recensione. Quindi guardate le immagini, siete spietati anche voi con gli occhi. Sì, allora passiamo subito a un breve ripasso della trama, proprio breve, perché sennò cadiamo in forzevoli spoiler. Dopo gli eventi accaduti nel primo Tales of Symphonia, cioè diciamo pure la salvezza del mondo attuale data dal vecchio protagonista Lloyd, in questo sequel useremo un personaggio chiamato... dove è scritto il nome? Emil Castagner, ecco, già il cognome non suona molto bene. Mi sa che è parente di Cactus Strawberry, eh. Può darsi. Un ragazzo che vive a Palma Costa, insomma. Palma Costa. Si chiama Palma Costa la città. Infatti già anche qui cadiamo un po' sui ridicoli, però il gioco è serio. Cioè, si prova. Sì, dai, smettila di fare. Sono io che devo parlare male. Ah, ma questo è già un errore, diciamo. Se vuoi dare dei nomi stupidi e fai un gioco serio... Sì, effettivamente, infatti questo gioco è più... anche Monkey Island sa dei nomi, diciamo, anche nomi stupidi già a partire dal protagonista, però essendo un gioco... Sì, diciamo che lo fa apposta Monkey Island. A stampo comico, diciamo, non può... è normale che ci siano dei nomi stupidi. Qui uno che ha castagna di cognome vive in un paese che si chiama Puffolandia. Palma Costa. Siamo lì. Vabbè, insomma, Emil Castagna, ragazzo che vive a Palma Costa, un giorno... a Palma Costa, che prende, è iniziato a prendere fuoco, è stato attaccato dai banditi. Perché ridi? Perché qualcuno gli ha dato fuoco. Vabbè. Vede davanti ai suoi occhi venire uccisi i suoi genitori da Lloyd, protagonista dello scorso Tales of Symphonia. E quindi qui tutti, oddio, l'eroe del primo è diventato cattivo, ammazza la gente a sangue freddo, da fuoco alle città con nomi stupidi. E insomma, il nostro Emil dopo rimarrà scandalizzato per tutta la vita, e in un futuro, cioè praticamente subito dopo questo filmato, quando lui sarà un po' più grande, deciderà di partire all'avventura per vendicare i suoi genitori. Quindi, in un modo o nell'altro, tentano di dare una trama seria in un mondo stupido. E vabbè, cosa succede dopo? Durante i suoi viaggi lui incontrerà una ragazza che si chiama, dove è scritto, Marta Lualdi, celebre nome di mondi fantasy, che lei praticamente lo salva quando lui va nella foresta. Hai detto due frasi completamente sgrammaticate. Non importa. Vai. Diciamo che lui all'inizio del suo viaggio dice di inizia, no, non riesco, scusatemi un attimo. All'inizio del suo viaggio decide di passare per la foresta fuori da Palma Costa e viene attaccato da un orso. Ecco, qui verrà fuori Marta che lo salverà dal cattivissimo orso, che in realtà è molto amichevole e aveva buone intenzioni. Per cui qui i due personaggi si conosceranno e saranno i due personaggi principali del gioco. In pratica voi userete solo loro due, diciamo. Perché gli altri due personaggi, quindi come i classici RPG avrete quattro personaggi in squadra, gli altri due personaggi saranno dei mostri che voi acquisirete durante il gioco. Perché questo gioco ha una funzione chiamata, diciamo, innovativa, ma in realtà non è che sia questa grande innovazione, che nel prequel non c'era. Cioè, quando voi sconfiggete determinati mostri, c'è una percentuale che può far venire fuori il fatto che quando avete sconfitti loro vi chiedano un patto con loro. Se accettate, entreranno nella vostra squadra. E salendo di livello si evolveranno in mostri più potenti, quindi un po' Pokémon, diciamo. Dov'è la cosa innovativa? Che i mostri si uniscono, cioè, nella recensione dicono che è innovativo, che negli altri giochi non si è mai Esatto, visto. no, dov'è dice la cosa innovativo che innovativa? sono più di 200, ma Ah, i Pokémon ok. l'hanno già fatto. I Pokémon sono più di 200. Vabbè. E sì, diciamo quindi che cercano di sfruttare questa particolarità, Ma è anche tipo un perché... Pokémon Mystery Dungeon, cioè tu ammazzavi, a volte ammazzavi un tizio e ti si Sì, voleva unire. la Sì. funzione è quella lì. Diciamo che è quello però con i bambini col testone. E i mostri col testone, Non tanto. me ne ricordo se No, erano non hanno il testi. testone, cioè, alcuni sono anche carini. Carini. Carini. Ecco. Il problema è che, essendo un gioco del Wii, non sfrutta nessuna particolarità del Wii, come tutti i giochi a parte quelli Nintendo. Cioè, pochi sfruttano le peculiarità del Wiimote. Pochissimi. Beh, Questo neanche quelli infatti... Nintendo praticamente ormai. Sì, questo infatti sfrutta il Wiimote come un joystick qualunque, nel senso tu spingi A e levetta per fare l'attacco fisico, spingi B per usare le magie, cioè quindi sono come i tasti di un joystick, non è che devi muovere il telecomando. Sì, funziona a tasti. Beh, Il come un normalissimo sbaglia gioco. hanno sbagliato console, forse. Sì, Sì, probabile. avrebbero dovuto farlo sulla Bimbo Minchia console. Ah, ma è Wii, eh. Il Wii purtroppo è metà Bimbo Minchia, sì. Ah, c'è Birbo. Birbo non lo puoi toccare. Vabbè. Insomma, cosa si può dire di buono di questo gioco? L'unica cosa apprezzabile, ma in realtà non è apprezzabile, è la longevità. Ma il Insomma, no, finale. sta buono te, non posso dire anche il finale. Diciamo che il gioco ha una buona longevità. Il problema però è che questo fattore qui lo rende ancora più brutto, perché il gioco è noiosissimo, quindi tu non hai voglia di andare avanti, anche se è lungo. Perché tu inizi e magari dici, è un po' noioso, gli do un'altra possibilità. Però andando avanti ti viene solo da vedere cose ancora più brutte. Io giocandolo mi sono, diciamo, attraverso il loro viaggio, reso sempre più conto che stavo sbagliando ad andare avanti nel gioco, perché è ingestibile. Incontri nuovi personaggi ancora più brutti e meno dettagliati di quelli prima. Le battaglie sono gestite malissimo, troppo facili o a volte troppo difficili. La storia è classica ed è incongruente, a volte sfocia in cose assurde. Il sistema di battaglia del gioco, come dicevo prima, è uguale a quello del GameCube, che è simile a quello di Grandia 2, per dire. Voi siete sul campo di battaglia e potete muovervi con la levetta, però la battaglia ha un funzionamento comunque a turni, nel senso che il vostro personaggio ha una barra che va avanti e quando arriva alla fine l'attacco che avete deciso di fare col personaggio si attiva, però voi ovviamente dovete essere vicino al mostro per eseguirlo, se no lo mancate. Diciamo quindi che è una battaglia a turni in tempo reale. Sì, dai, è abbastanza gestita male anche nel gioco, perché ci sono molti boss che nonostante voi vi allontaniate hanno delle mosse che colpiscono il loro schermo, allora non ha senso. Cioè, scusa, tu scappi mentre lui carica in 2 secondi sta mossa e ti fa sta onda di fuoco che becca tutti. Infatti ho trovato molto problematica anche nel boss finale, che non è forte ma ha mosse, diciamo, un po' eccessive. Insensato. E essendo uno di quegli RPG costruiti abbastanza maluzzo, è uno dei classici boss tank, cioè solo quintali di vita che devi stare delle ore a dargli le botte. Quindi è anche abbastanza noioso. La trama, ve l'ho detta prima, ovviamente sfocerà in solite minchiate da RPG classici. Quindi vi impongo di non andare avanti perché sarebbe solo un dispiacere per voi. Regredireste mentalmente. E in più ci sono cose secondarie che ho trovato particolarmente inutili, cioè quando voi cambiate città nel gioco, a volte potreste incontrare dei personaggi che vi danno delle quest, quindi delle mini missioni, che sono mini missioni che voi svolgerete in dungeon che avete già passato, se no non potete farle perché il dungeon non sapete dove si trova. Il problema di queste missioni, che anche se sono a tempo, vabbè, quindi vi impongono di correre e fare meno battaglie possibili, quando voi le finirete vi daranno un oggetto debolissimo, quindi non ha senso. Tipo tu fai la missione convinto che otterrai dei soldi o qualcosa, in realtà ti danno la spada di due città fa più debole. Allora dici, io ho perso 20 minuti del mio tempo a fare sta cosa per un tizzone baffuto. Quindi anche qui si trovano un sacco di cose abbastanza inutili. E probabilmente verrò odiato per questo dai fan della saga, se esistono fan della saga italiani, ma chi se ne frega. La saga può darsi, di questo capitolo non credo. Sì, perché comunque sì, è il secondo questo qui. Oh sì, dovrebbe essere il secondo. E infatti riporta anche i personaggi del primo. Quindi diciamo che l'unica cosa positiva è proprio la longevità. Cioè, ok, negli RPG la longevità è importante. Perché io sono sempre stato dell'idea che un RPG corto vale poco, però una musichetta triste può valere. Per esempio, Final Fantasy VI mi è piaciuto molto, nonostante non sia lunghissimo, è un bel gioco. Però questo qui, invece, al contrario, è lunghissimo, ma non mi è piaciuto per niente. Diciamo che io gli ho dato troppe possibilità e l'ho anche finito, purtroppo. Ecco, da dire cosa c'è, che ha due finali, ma non vale neanche la pena di guardare tutti e due, infatti io non li ho guardati tutti e due. Ho scelto quello che volevo e basta. Diciamo che secondo me è stato sbagliato rifarlo, perché comunque tutti dicono che il prequel finiva bene e dava un finale serio alla storia, al mondo. Questo qui invece riapre tutto e ti ricrea proprio dei nuovi personaggi e una nuova storia, quindi è un sequel che non era necessario, cioè che il primo non ti spingeva a dire adesso c'è un sequel. È un sequel fatto così per fare soldi magari, per tirare su nuovi fan, ma è fatto male, questo non tira su nuovi fan, questo fa odiare la saga, dal mio punto di vista. Perché adesso che io l'ho giocato, mi viene da dire, ma se questo fa così schifo chissà com'è l'uno. Magari sarà più bello, sì, però non mi spinge a giocare all'uno. L'hai giocato l'uno? No, non l'ho giocato, perché questo qui mi ha schifato. Ma anche Vario Punk qui di fianco ha provato a giocarlo e dopo la prima battaglia l'ha spento. Ma infatti, il gioco me lo sono procurato io, poi l'ho abbandonato e ci ha giocato lui. Vabbè. Sì, l'ho trovato in mezzo alla polvere, ho detto. L'ho abbandonato dopo 20 minuti, poi. Sì, quindi... A parte utilizzare questo sistema modi Pokémon e la battaglia di Grandia 2, è un classico RPG. Non c'è niente di nuovo, niente di spettacolare. E i dungeon del gioco hanno anche dei mini enigmi, proprio come i Pokémon. Purtroppo mi tocca dire anche questo, che sono simili ai Pokémon. Non prendetela male, perché io non sono uno di quelli che... Guarda un RPG fatto con XP, dice che sono i Pokémon. Io non dico questo. Questo non è fatto con XP. No, infatti. Però questo qui è simile ai Pokémon perché i dungeon sembrano le palestre. Tipo, sai il dungeon dell'elettricità dove tu devi spingere l'Eva con più per far scendere l'ascensore. E allora lì me l'avete un po' tirata lì. È come la palestra della Zaffiro, per dire. Mm-hmm. Che lì ti, vabbè, ti spegneva l'elettricità, però sono sempre su quel punto. Ecco, il fatto di cambiare mostri... però è strutturato male, perché se tu ti sei già scelto due mostri all'inizio del gioco e ti arriva un terzo che magari ti piace, se tu lo vuoi avere in squadra devi proprio abbandonare uno degli altri due. Non sei tipo la box, cioè, tu non lo puoi tenere nella borsa, non so dove. Lo devi buttare via. Ma almeno qualcosa di verosimile, dai. Sì, però comunque è tipo, cioè, un po' fastidioso, perché magari quello l'avevi allenato tanto, ti tocca mandarlo via e buttare via delle esperienze. E sì, effettivamente è un po' una pecca, però magari è stato volontaria sta cosa. Il problema è che i mostri non influiscono per niente nella battaglia, anche se tu li porti a livello massimo, e io li ho portati a livello massimo, nelle battaglie contro i boss sono completamente inutili, cioè sono quelli che si buttano addosso al boss e dopo 5 colpi muoiono e dopo tocca a te beccarti le botte. Diciamo che ti rallentano i boss per 3 secondi. Anche se li hai potenziati tanto, non fanno nessun tipo di danno, sono solo macchine dei tank, dai, si va con le botte buone. Cara da macello. Esattamente. Anche perché loro ovviamente non sanno tirarti gli oggetti curativi. Vabbè. Quindi bisogna affidarsi solo sugli altri due personaggi, che sono o i due protagonisti o altri personaggi che si aggiungono momentaneamente nei pezzi della storia. Hanno commentato Oxymo Sprite, però questa lingua non riesco a capire che lingua sia, tu riesci a capire? No. E vabbè. Quindi diciamo solo che è stato veramente un dispiacere giocarlo, è stato un piacere invece parlarne male, perché comunque è sempre bello parlare male di giochi fatti male, e comunque non si può sempre parlare bene di giochi, e anche se è un gioco per i Wii non posso comunque dargli la mia protezione, cioè tutto il rispetto per la Nintendo, ma questo la mia benedizione ma... ma questo davvero è fatto male. Dica? È fatto male. Sì, cioè dai, forse sono io che sono un po' critico, o forse no, però io sono abituato a giocare un po' agli RPG, quindi mi sono fatto una mia certa idea su come sono gli RPG. Non dico di trama, ma proprio, cioè, diciamo di struttura di base magari, come si evolve il tutto. Questo invece proprio rimane indietro, è come se fosse scritto da un bambino, cioè dai, è troppo buonista. Sarebbe stato... ridicolo anche 20 anni fa un gioco con questa trama, quindi... Sì, perché comunque è buonista, cioè magari ok, c'è il cattivo con i suoi generali, ma i suoi generali sono dei bambini di 10 anni, come fai a prenderli sul serio? Cioè tu incontri sta bambina con un gatto sezione volante ed è uno dei generali più forti del mondo e dici ma che cacchio? E i soldati muoiono contro di lei. Sì, infatti. Cioè, questo è proprio ridicolo, tu non puoi prendere sul serio una cosa del genere. No. Neanche se hai 8 anni, cioè ormai... Cioè, ok, io almeno tipo Final Fantasy 9 quando lo giochi da bambino è bellissimo, adesso è un gioco normale per me, però almeno quello lo prendevi sul serio, perché comunque è strutturato bene anche a livello di personaggi, nonostante siano cartoneschi. Invece questo qui, cioè, cade sul banale. Diciamo, è un po' il mondo di Arale, mi ricordo. Sì, volendo. Quindi anche se non hai Dottor Slump in squadra, più o meno... Che poi è lo stesso di Dragon Ball, eh? Sì, sì, sì. Vabbè, quindi... diamo pure il pessimo voto in banane e chiudiamo questo... Zero. Orribile sipario. Zero. No, infatti, cioè... La grafica salviamo. Appunto, infatti io gli do una banana per la grafica. Ah, ecco. Ok, cioè dai, non possiamo squarciarlo. Però mi cade su una banana. Ah, wey. Del resto, la trama per un JRPG è fondamentale, perché bene o male i JRPG sono quasi sempre la stessa solfa. Però la trama è quello che distingue, dai. Sì, ma tu devi capire, questo qui aveva la spinta che gli dava quello prima. Come ha fatto a farlo così brutto? Perché... boh. Addirittura volevano sfruttare la spinta. Sì, bravo. Non l'ho capito, sinceramente, perché abbiano fatto una cosa così ridicola. Avranno dato il progetto a un bambino di 10 anni. Sì, al figlio del produttore. Perché non avevano magari voglia di impegnarsi a fare un gioco serio col budget che avevano. Magari, cioè, hanno deciso di sfruttare direttamente, dare un budget basso e sfruttare direttamente il successo del primo. Ma il budget non è quello, perché il budget c'è, ma probabilmente hanno voluto indirizzarci volontariamente ai bambini, forse. Sì, magari anche... Può darsi, però a questo punto avrei fatto un gioco più a sfondo, diciamo, comico. Sì, esatto. A questo punto, in modo che non c'è bisogno di creare una storia elaborata, una cosa molto elaborata, e fa comunque, è comunque bello, sì, quello stesso. Ad esempio... Un target diverso. Alla fine Final Fantasy e anche cose, e anche Dragon Quest hanno la loro saga dedicata ai bambini, che hanno altri nomi, cioè, è lo stesso brand, però c'ha altri sottotitoli. Sì, sì. Non vai a rovinare la saga originale facendo diventare un tipo Kingdom Hearts la versione bimbo minchia di Final Fantasy, per dire. Oh, se sputiamo su Kingdom Hearts. Eravamo lì. C'è gente che definisce addirittura Ansem un titano di ghiaccio i boss più forti della storia, quindi... proprio. vabbè. Andiamo proprio in basso. Niente. Temo che tocchi a me, purtroppo. Vabbè, sei rimasto, se no... Ah, non so, gira, vuoi fare un parlare... No, vai. Fai parlare il produttore esecutivo. Cosa? Non ti sento. Fai parlare il produttore esecutivo, lui avrà tante cose da dire. Non è in questa stanza questo vento. Non so neanche dove sia. Che bel forum. Sarà preso dagli affari. C'è un... è vero, c'è un tizio di una lingua che non riesco a capire che lingua sia. Neanche Google Traduttore me l'ha voluto dire che lingua è. Che ha spammato Oximus Prime in tutti i forum della sua lingua. Mi ha fatto un grande favore. Molto spudoratamente. Ma che cacchio di lingua è? Non riesco a capire. Vabbè. Mi ha fatto un grande favore. Speriamo okay. Non siamo fan di Tales of Symphony. O di della Telltale in generale. Ok, tocca a me. Bene, bene, bene. Allora, oggi parliamo di PlayStation 1. Parliamo di un fantastico gioco. Che si chiama Tomba, però qui in Europa si chiama Tombi. Cos'ero sti sbuffi? No. È più profondo di quello che crediate. Allora, no, dico la traduzione fa un po' ridere. Sì, da noi non poteva chiamarsi Tomba, dopo si va il gioco su Alberto Tomba. Dai. Alex l'Ariete. Vabbè. Allora, come definire il genere di Tombi? Qui lo danno come action. Io non saprei che genere dare. È uno una che slash side scroll, un beat 'em up side scrolling con le quest. Ma io direi che è più un platform con le quest, dai, più o meno. Sì. Perché comunque è sempre in 2D e va avanti. Non è in 2D. In 3D e va avanti nel livello. È in 3D. Però, no, aspetta, l'uno no, hai ragione, l'uno è in 2D, è il 2 che diventa 3D. Però gioca con le telecamere e te lo fa sembrare come se fosse in 3D in certi punti. Allora, praticamente, quindi possiamo definirlo un platform con le quest. Tombi è un ragazzo selvaggio dai capelli rosa, che abbiamo già detto metà della trama, che vive in un mondo dove tutti gli esseri umani, gli esseri buoni in generale, nani e che tutto il resto che dir si voglia, è soggiogato dai maiali cattivi. Cioè, l'impero malvagio che ha soggiogato il mondo è quello dei maiali cattivi. Ve lo ripeto tanto, i maiali cattivi, ok? Cattivi. Maiali. E sono maiali con la giacchetta e gli stivali. Ecco, quello spiega perché sono cattivi allora. E hanno il tridente, per quello sono cattivi. Okay. E, i maiali cattivi sono comandati dai 7 maiali più cattivi, che sono maiali maghi col poteri elementali, che a loro volta sono comandati dal perfido maiale. Gli elementi sono 7? No, non mi pare. Loro hanno dei sottelementi. Cioè, hanno inventato dei sottelementi. Ok, gli elementi dei maiali. Okay. Ci sono 7 stregoni maiale. A loro volta comandati da un ultimo maiale più potente di tutti, che è il cattivo che comanda tutto l'impero. Il maialone. All'inizio del gioco, cioè in realtà nel menu principale, se non spingiamo niente possiamo vedere il filmato iniziale. Se invece facciamo start game non sappiamo, non sappiamo cosa stiamo facendo. Vabbè. Il filmato iniziale ci mostra che Tombi stava dormendo. Quando un maiale cattivo, anzi non sta dormendo, stava menando dei maiali cattivi. Ma prende un cinghiale nel filmato. Sta inseguendo un cinghiale. Incontra i maiali cattivi, li mena, però uno di loro riesce a rubargli il bracciale del nonno. E quindi lo scopo di Tombi è ritrovare il bracciale del nonno e quindi, diciamo, l'isola dove i maiali portano tutto l'oro che rubano alla gente. E il gioco inizia così, che Tombi è solo lui con la sua mazza frusta, perché la sua arma è un mazza frusta. No, lo spallagente si chiama. Si chiama lo spallagente, ma è un mazza frusta. Vabbè, è una catena con la palla che cosa li picchi i maiali. E parte dal villaggio di tutti gli esordi, fantastico il villaggio di tutti gli esordi. E qui viene istruito da un contadino. Su come può svolgere la sua missione. Praticamente la prima quest principale che deve fare è andare dal vecchio centenario, che gli spiegherà come si battono i maiali cattivi sostanzialmente. E dopo, svolgendo le quest principali, vengono date altre quest principali. Ma in questi percorsi vengono date anche decine di quest secondarie. Infatti il gioco ne ha tipo 120-130 quest. Infatti il genere, quello che viene fuori, è molto unico come stile di gioco, perché nonostante sia una sorta di platform, non è proprio un platform. Ci sono i poteri, i potenziamenti. Tipo all'inizio Tombi non sa nuotare, per dire, o comunque ha solo lo sfollagente, dopo avrà altre armi, anche armi che armi e abilità che consentono di aprire nuovi posti nei scenari. Tipo in Zelda c'era la bomba e il martello, anche qui Tombi può spaccare certe rocce o fare cose simili. Anche i pantaloni di colore diverso. Sì, può cambiare anche i Sì. pantaloni. Mentre nel 2 ha proprio i vestiti. E niente, questa è la trama e lo stile di gioco è semplicemente questo. Lui avanza per questi livelli, può interagire con certi oggetti dello scenario a volte per risolvere quest e picchia i mostri che vengono refreshati. Ogni volta che torni nel livello, vengono refreshati. Perché i livelli sono concatenati tutti. C'è una mappa del mondo. E all'inizio la strada aperta è quella principale, poi grazie all'abilità e alle quest secondarie puoi aprire anche altre strade e alla fine crei un mega labirinto tra tutti i livelli. Il gioco è del 97, della Whoopi Camp, bellissima Whoopi Camp, che purtroppo è fallita dopo Tombi 2. Infatti Peccato. ha fatto solo Tombi e Tombi 2, Tomba 2. Che è bellissimo. E avevano annunciato che avrebbero fatto Tomba 3, ma infatti cacchio, dal 97 al 99, proprio 2 anni ha vissuto. Però se voi andate su YouTube a cercare Tomba 3 verrete ricrollati, quindi non lo fate. Chissà perché, però io vorrei un ricroll proprio in Tomba 3, non metto. Vabbè. I punti a favore di Tombi sono tantissimi, dalla colonna sonora agli effetti sonori, il 2 al doppiaggio, ma ne lasciamo perdere. Il 2 anche il doppiaggio in italiano. Allora, gli effetti sonori, la colonna sonora, la simpatia in generale, cioè tutto. Tombi è un guazzabuglio di divertimento e comicità, e anche non è facilissimo, diciamo. Quindi quello che viene fuori è un platform chiamiamolo ancora platform perché non so come definirlo, unico nel suo genere. Volendo si può definire anche action RPG perché hai anche l'inventario. E quando giri in velocità anche un po' più. Sì, volendo è un action RPG, volendo. È un gioco unico nel suo genere e non ne ho mai sentito parlare male. È poco conosciuto, ma chiunque ci abbia giocato gli è piaciuto. Infatti, il voto più basso che vedo. Io avevo giocato come sempre alle demo che davano assieme alla PlayStation. D'accordo. Tomba. Infatti, nella demo di Tomba potevi arrivare al vecchio centenario e poi finisce qua. Esatto. E poi ti diceva in estate uscirà il gioco completo. L'avrò giocato un centinaio di volte la demo. Ah, è fantastico, eh. E infatti il voto più basso che c'è in rete è 7,5 per dire. Niente, Tombi è Tombi, è un gioco incredibile che è da recuperare. E vedo che anche quello si può acquistare per la Play 3 nel robo che si acquista in giochi vecchi, non mi ricordo come si chiama. Il PSN. Quella cosa lì, sì. Qui me lo mette anche per PSP. Classic. Qui dice anche che c'è la versione PSP, tanto meglio. Vabbè, se è la versione set Tombi 1, quello per PS1 vanno anche sulla PSP, quindi Sì, però probabilmente sarà quella. dico commercialmente, non quella conversione che fa Ah. Vabbè, buono allora. commercialmente qui dice che l'hanno rilasciato anche per PSP. Ah, bene. Tombi, se volete scaricare il gioco, si trova su Arena 80. E nient'altro da dire. È un gioco consigliatissimo, veramente, veramente divertente. Merita le 4 banane che gli darò. Eccoci qua. Non so cos'altro dire. Direi che possiamo chiudere qui. Avete qualcosa da annunciare? No. Personalmente no. Hai detto in questo momento no, Riccardo? Ho detto personalmente no, ma te mi senti così basso? Sì, ogni tanto sì. A volte sì, a volte no, ma anche Marco. Senti, l'altra gente è bassa. E anche tutti gli altri che sono in collegamento con noi. Ma potrebbe essere un problema tuo, se ne hai pensato. Eh sì. Ma solo mio, non di Claudio. Niente, allora l'episodio 6 direi che possiamo chiuderlo qui. Via quei saluti. Non mi guardare male. Chi vuole iniziare? Dai, inizio io stavolta. Mario Punk vi saluta. Buia. Di solito finisce così. Allora andiamo al contrario. Scarde Punk muta. Signori, non giocate a Tales of Symphonia Dawn of the New World. Mi raccomando. E a niente della Telltale Game. Rixka saluta. Ciao. E Gira 93. Ciao grandissimi. Chiudiamo qui, ci vediamo alla prossima. Ciao.